24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino. Qua deve alzarsi la nostra aeronautica militare, la nostra marina militare, e andare ad affondare tutti i barconi, come già è successo in precedenza, vi ricordate, in Albania. Se poi questo è un atto di guerra o non è un atto di guerra, poco se ne importa. La lei, perdido nel corazón de la grande Babilón. Venise nel clandestino por no llevar papel. Io voglio la morte di qualcuno, no, io voglio lavorare perché tutti possano vivere il più serenamente possibile nel loro paese, e se non c'è questa condizione accolgo chi mi posso permettere di accogliere. Scusate, non è meglio fare di tutto per impedire queste partenze e queste morti identificando là chi ha il diritto di arrivare qua? No, sciacallo, non speculare, però le coscienze sporche le hanno i finti buoni, cioè io mi sento buono, i cattivi sono quelli che non risolvono il problema, quelli sono i veri cattivi. Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino para burlar la ley. Qualcuno ha fatto lo sciacallo ieri e in questi giorni, però io ho molto apprezzato che ci siano state posizioni sagge e responsabili di tante persone, anche dell'opposizione. Berlusconi ha detto cose molto più sagge di Salvini, ed è giusto dirlo. Peruano clandestino, africano clandestino, marijuana illegale. Per Renzi Berlusconi è stato più saggio di Salvini, infatti racconta Libero, questo è uno dei retroscena politici più interessanti di oggi, infatti racconta Libero che Berlusconi si sarebbe proposto per fare il commissario straordinario per l'immigrazione. Che pensi mi? È tornato il che pensi mi? Io so come si fa, perché ci vogliono rapporti internazionali. Lui a suo tempo parlò con Gheddafi, gli mandò una testa di elefante d'argento apribile, gli portò qualche prebenda, un po' di reperti archeologici, e finirono gli sbarchi. Ora la situazione è un po' diversa con la Libia, però il che pensi mi è tornato. Silvio Berlusconi, potrei fare il commissario straordinario per l'immigrazione, io so come si fa. Cari italiani, allora buongiorno, ben ritrovati, sono le 6:32 minuti e questa è 24 mattino, Lorenzo Nespoli è in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è in regia. E che dire, ognuno sa come si fa, ognuno sa come si fa. Santanché addirittura propone di distruggere i barconi, come è successo con l'Albania. Non è mai successo che un barcone sia stato affondato con l'Albania, forse si riferiva alla Somalia, forse in Albania, ma non me la ricordo questa cosa. Comunque, va bene, tutti sanno come si fa. Giovedì c'è un vertice dell'Unione Europea, dell'Europa, che si muove a parole, tutti hanno la soluzione pronta, e poi chissà. Vabbè, parleremo anche di questo, ne parleremo alle 8:15 con il procuratore capo di Palermo. Sapete che hanno beccato degli scafisti e dei trafficanti, non degli scafisti, dei trafficanti che organizzavano tutto dall'Italia, avevano il documento per i profughi, erano in attesa di dire siamo profughi, e organizzavano il traffico di esseri umani. Uno intercettato dice: ho una casa da 13 milioni di euro ad Addis Abeba. 13 milioni di euro. Un altro dice: potrei tornare ad Addis Abeba, che ci vivo per 20 anni con i soldi che ho fatto. E alè! E alè! Andiamo avanti così. Buongiorno, apriamo subito il Parlamento, perché oggi c'è un ritorno di quelli. Adesso va vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Con i fiocchi c'è il nostro Albertone Forchielli, che saluto. Alberto, buongiorno. Ciao Lino, ciao. Da dove ci parli? Ah, sono a Hong Kong. A Hong Kong, lì sì che si sta bene, eh? Vista da lì com'è tutta questa vicenda, no? Cosa ne pensi? Quando leggo i giornali italiani, o mi butto al 34esimo piano o la metto in gag. Ah, ecco, appunto. E perché? Perché dal 34esimo... Che sei al 34esimo piano? Ci sono i palazzi, sì, così alti? Lì. Sì, sì, sì. Grattacieli, sì, 80 piani. 80. 80 piani, 80 piani. Vabbè, Alberto, senti, qua poi parliamo di immigrazione. Prima però dovevamo, sai che io ti uso come mio consulente sul Milan, perché tu dici che Mr. B, anzi ribattezzato da Mr. Bean, quello thailandese, è un po', come dire, un Mr. Bean per l'appunto. Però qua adesso dice che viene in Italia e compra tutto. Ma non ho capito, perché ci va proprio di domenica che i negozi sono chiusi. No, non lo compro in negozio, no. Ma lo so, io può darsi che abbia messo insieme due lire cinesi, insomma, perché non so, ho visto qui in Cina c'è stato anche un grande entusiasmo sul Milan, poi dopo quando la gente ha capito devo tirare fuori quei soldi e poi tutti gli anni ce ne devo mettere degli altri, capito? Allora vedi, ma che investimento è? Quindi è il calcio, ho un po' visto così, un attimo di raffreddamento. Io ho sempre pensato che avendo Mr. Bean degli ottimi collegamenti cinesi, cioè suo padre, no? Ho sempre pensato che potesse avere una cordata misto cinese, sì. Però visto dalla Cina mi sembra si è raffreddato l'entusiasmo, sì. Cioè, hanno visto che devono tirare fuori troppi soldi, certo, si entusiasmano, che bello la squadra di calcio, poi quando guardano i conti dicono cioè, tutti gli anni, capito? Perché loro pensano che sia un investimento, cioè, un immobile, vabbè, dico, anche se dopo non mi dà dividendi, capito? No, altro che dividendi, tutti gli anni bisogna fare gli aumenti di capitale. Allora questa roba qui non è che è andata giù molto bene. Non è andata d'entusiasmo. Se uno pensa di entrare nel calcio per fare soldi, ha sbagliato. Il calcio è un po' così, una passione, una malattia per alcuni, e quindi sì, mi sa che perdono un po' di soldi. Quindi vabbè, ma cosa dobbiamo puntare? Insomma, a chi me lo vendi sto Milan? Più ai cinesi, più a Mr. Bean? Mr. Bean, tu lo chiami? Ma guarda, io ho detto che Mr. Bean penso che abbia soldi cinesi dietro. Ah, però è anche un po' un giocapiatti in casa da suo. È un gioco magari, piatto. Magari, io potrei venderlo allora. Io potrei accettarlo bene un gioco a piatti, capisci? Va a finire che è un cavaliere di Berlusconi, capito? Berlusconi che lo venda a se stesso usando Mr. Bean, così lo scopo. È un berlusconino? No, lo so, mi è venuto in mente così, ma non riesco a darmi una ragione, capito? Perché Mr. Bean ha usato questa storia del Milan anche a farsi conoscere a casa, quindi la sta molto pompando qui, finché non le vedo firmate, finché non vedo le fiducioni, non ci credo. No, però invece vorrei chiedere una cosa. Tu che l'anno scorso avrai visto l'Expo, non era mica a Shanghai l'anno scorso? Sì, nel 2010. Nel 2010, sì, vabbè, l'ultima a Shanghai. Sì. Costa, cioè come la vedi? Cioè, lì ha portato un po' di business, di interessi, di indotto, di soldi? Perché qua manca 10 giorni all'Expo, c'è una grande attesa, sembra tutto un po' per aria, però si dice ce la faremo. Cosa succederà con questa Expo? Ma guarda, io ho sempre detto, anche in tempi non sospetti, prima degli scandali, l'Expo è una roba vecchia. Vecchia. 50 anni fa, sì, la Torre Eiffel la fecero per l'esposizione universale di Parigi, credo che la prima Expo l'avranno fatta 150 anni fa. In un mondo virtuale l'Expo è un'idea vecchia, fatta però con debiti nuovi, capito? Questo non... io che la gente si sposti per andare a vedere il padiglione del Belgio, ci credo poco. Detto questo, può andar bene per una città, per Lagos, capito? Per una città di un paese emergente che si può far vedere, ma Milano è una città che è ben messa sulla mappa mondiale. Porterà un po' di turisti, dai, non è vero? Guarda, al momento l'unico paese al mondo che sa che c'è l'Expo a Milano è la Cina. Però Arriveranno un bel po'. Io non ho mai letto nulla sull'Expo di Milano in nessun altro giornale del mondo che non fosse un articolo sul New York Times che lo dava a Milano, poi, non tanto poi per l'Expo. Detto questo, sui visti Cina, sono stato recentemente a Pechino, non c'è un gran movimento. È vero anche che l'Expo dura fino a ottobre, per cui ancora può darsi che gli uffici visti, però questo conferma, mi quadra col fatto che le prenotazioni non si muovono a Milano, gli albergatori dicono qui non c'è nessun blip nelle prenotazioni. E del resto tutti questi biglietti venduti, sai, prima di tutto i biglietti vengono dati ai tour operator, e poi sono i tour operator che li danno alle persone che devono viaggiare, ma il costo del biglietto nel contesto generale di fare una scelta di un viaggio è roba da ridere, capito? No, è chiaro. Noi non sappiamo quanti... Ma forse si spostano quelli del set più che i turisti, anch'io, io non è che dico vado a... I biglietti secondo me sono in magazzino come il grano de lime. Adesso dici. Sono stoccaggio comunque. Vabbè, speriamo almeno che gli operatori del settore si spostino, no? Almeno quelli ci sono gli operatori. E non so, non fai, non spendi 1,2 miliardi per gli operatori del settore, d'accordo? Effettivamente. Non può essere una fiera di settore, un Expo è una roba che muove milioni e milioni di persone, però a Shanghai ha mosso un sacco di gente, però ci sono anche 1 miliardo di cinesi, capito? Cioè, devi vabbè, sei un po' poco ottimista, mettiamola io così. Io sono sempre stato poco, poi a questo si aggiunge le figure nostre, capito? Cioè? Palazzo Italia, di tutti i paesi noi siamo quelli più indietro, capito? Non sappiamo neanche se siamo in grado di aprire il 1° maggio. Padiglione male per essere i padroni di casa. Come invitare a cena degli ospiti, non avere il gas a mettere sulla l'acqua per la pasta. Adesso addirittura l'Expo in cartone a Casa Italia per renderla presentabile. Io mi domando se al bando di gara parteciperanno anche l'ufficio di ortopedica di Soli. Visto che sei in cartone, sono bravi loro con i gessi. Mettiamo il gesso. Cos'è l'ortopedica Rizzoli? Sì, l'ortopedica Rizzoli sono quelli che fanno le protesi. Rizzoli è un famoso ospedale di Bologna dove facevano i gessi. Si rompeva, fare ancora, si rompe il braccio col motorino, va a Rizzoli. Il gesso del Rizzoli per l'Expo, vabbè. L'incartonano, fanno la roba finta perché non riescono ad arrivare alla fine, sai, no? Tutte le parti, queste sono le robe che leggo quando leggo il Corriere della Sera. Sì. Vabbè. L'Expo, speriamo bene. Ma dove sei? Vabbè, sei a Hong Kong, il cellulare ogni tanto fa un po' le bizze, caro Forchelli. Ma sei a Hong Kong, che dobbiamo fare? Ma forse la mano, questo iPhone, c'ho un manone io, poi ogni tanto blocco il... Tu col manone schiacci, non blocca. Stai lì con la manina, fai un po' la manina, perché sennò non ti sentiamo bene. Vabbè, dai, sentiamo Renzi sull'immigrazione, perché qui la questione è colpa di chi, cosa si fa di qui. Vabbè, tu sei lì a Hong Kong, magari è una percezione ben diversa, ma qui in Italia non si parla di altro, ma giustamente ci sono le prime 10-15 pagine dei giornali dedicate a racconti intanto di queste tragedie e poi a che si deve fare, cioè, per risolverle. Sentiamo Renzi. In questo momento io escludo la possibilità della presenza di uomini di terra. Altro è una serie di interventi mirati sui nuovi schiavisti, su questi trafficanti di uomini, su queste persone che vanno assicurate alla giustizia. Voglio dire una cosa, l'Italia ne ha arrestati 976. Vabbè, che si può fare? Ma porca miseria, questa storia dell'immigrazione. Ma qualcuno vede il modello Australia, che è più vicino a te geograficamente, di respingimenti? Sì, però dall'Australia non è che fuggono dall'Africa per andare in Australia, non è che arrivano dalle guerre. Ma no, tutto per venire in Australia c'è un mare. C'è il mare peggiore del mondo. Ogni tanto arriva qualche barchino di indonesiani. Ma è roba da ridere, cioè, a parte che l'Australia è enorme, li mettono in dei campi, poi li riporta a casa, ma non c'è questa vicinanza in Australia, non possiamo paragonarci all'Australia. No, il problema è che l'Africa subsahariana è povera, sono poveri, poi stanno crescendo demograficamente in modo importante. C'è un miglioramento sanitario, quindi un crollo della natalità, per cui c'è un forte sovraffollamento, come c'è pure in Bangladesh. Poi sì, le guerre, quindi questo è un fatto epocale, che io non so in che misura noi possiamo accoglierli e riceverli tutti, per cui qualche manovra di tamponamento bisogna farla, perché abbiamo rimosso tutta la prima fascia, perché prima c'erano i vari Gheddafi e compagnia. Certo, meglio con Gheddafi. Meglio con Gheddafi? Beh, certo, sì, quella guerra lì, abbiamo fatto la guerra, abbiamo pagato una guerra contro noi stessi. Sai, i numeri dell'immigrazione negli ultimi 3 mesi, ho letto, sono 20.000 migranti, neanche alla Baia dei Porci era previsto uno sbarco così. Sì, i numeri sono impressionanti. Pensa che dicono 1 milione sono pronti a partire. 1 milione sono pronti a partire. Dunque, questa cosa è sulle prime pagine di tutti i giornali. Ah, se ne parla anche lì. Sì, no, è enorme. Devo dire che oggi su Financial Times c'è una prima pagina su Renzi, dove Renzi fa una gran bella figura. Io ne ho detto tutti i colori su Renzi, devo dire che Renzi esce abbastanza bene a parole. D'altro canto, per gli americani il dramma vero è che l'Europa ha pochissima capacità. Noi ci riempiamo la bocca dicendo siamo la più grande economia del mondo, ma quando c'è bisogno di qualcosa non abbiamo i droni, non abbiamo sistemi di rilevamento, non riusciamo neanche a sapere dove sono i centri barconi, non sappiamo come colpirli, capito? Queste cose qui, per cui Renzi sì, è andato a Washington, perché poi alla fine sta gran Europa, poi appena succede qualcosa va in America, Renzi è andato da Obama, gli ha chiesto i droni e lui gli ha risposto comprateli, che due maroni, capito? Questa è la risposta di Obama. Perché magari noi in realtà, noi non siamo in grado, secondo me, di fare un'operazione per andare a tamponare in loco, capito? Per cui abbiamo bisogno del supporto americano. Dal punto di vista americano, loro hanno lo Yemen, la Siria, l'Iran. Hanno vari fronti aperti, certo. Il contenimento della Cina, capirai, per loro, capito, anche 1 milione di migranti, cosa vuoi che sia in Europa? Poi sono molto seccati dall'Europa, capito? Da questo baraccone che combina solo dei disastri, che non che gli americani non li combinino, capito, ma che non partecipa alle spese, che si parla addosso, che continua a tagliare le spese militari, a cercare di coinvolgere loro su operazioni militari mentre loro stanno cercando di uscirne, capito? No, è una cosa sulla quale Re Obama pare ci senta poco. Alberto, devo andare a far sentire il traffico, poi voglio sapere qualcosa anche sulla politica italiana, che ne pensi, e magari anche sulla Grecia, se ce la facciamo. Tra poco. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita, signori. Ecco il nostro 24 mattino. Europa. Quante volte la recitate questa parola durante il giorno? L'Europa non esiste, non è esistita in Kosovo, non è esistita in nessuna situazione dove serviva della politica. L'Europa non esiste se non per fregare noi poveri cristi. Salve Milan. sento delle tante cazzate che si dicono sui migranti, quella di estendere la risoluzione sulla Siria anche per bombardare con l'aviazione i barconi vuoti. Ok, i barconi vuoti, e prima di bombardarli, come fanno a verificare che sono vuoti? Com'è puntuale questa brutta Unione Europea nel ricordare a noi italiani che occorre fare una manovra economica. Ma si defila immediatamente questa brutta Unione Europea quando si tratta di darci i quattrini per far fronte all'immigrazione. Abbiamo preso stamattina che Enrico Letta se ne va a Parigi. Ma voglio, ma sapete come fatto? E tutto è possibile che questo sia un esempio, a uno possa arrivare tutti quanti all'estero, i compagni suoi che l'ha da presa, è un uomo intelligente, chi sapete che è un medico oculista, ha visto bene la strada da percorrere, per cui là guadagnerà molto di più, amici, ricordatevi, state buoni e tanta auria. Vabbè, Letta se ne va. Hai sentito Alberto Forchielli? Letta abbandona. Oh, ma un anno e mezzo fa era presidente del Consiglio, eh? Io non mi capacito di come la politica bruci le persone. Comunque anche lui che stia pur sereno, perché con Renzi in giro, speriamo che Letta si fermi, professore, non finisca bidello. Perché addirittura c'è questo rischio? No, dai, poverino. No, beh, però, capito? Mi ricordo ancora quella famosa frase. Cosa? Letta, stai sereno. Stai sereno. Facciamo il semestre europeo. Venerdì, lunedì era già a casa. Sì, sì, capito. Adesso te è anche va tutto bene. Da professore Bidel, rischi che da professore Bidel, vabbè adesso. No. Ah, oh, mondo. Il mondo è così. Il mondo dei vincenti. Vabbè, adesso sai che ha fatto Renzi, visto che vuole approvare la legge elettorale? Ha preso 10 deputati del PD che in commissione hanno detto noi li votiamo contro e li ha sostituiti. È una cosa che non ha precedenti, si può fare. Per il provvedimento per la legge elettorale li ha sostituiti. Ma Renzi come lo vedi? Adesso il Financial Times lo vede bene. Tu che fai? Un mea culpa? Stai facendo marcia indietro? No, cerco di essere. Ma poi ha detto un parolaio, mi ripeto sempre, cioè, parla di queste riforme, poi dopo fa parte di quella scuola dell'illusionismo italiano, partita con Mussolini, continuata con Berlusconi, ci racconta di tutte queste cose bellissime che stanno succedendo, poi in realtà anche lui può fare poco, può solamente raccontarci, renderci belle le cose brutte, capito? Raccontarci la favolina del pomeriggio. Anche questa crescita qui dello 0,5 quest'anno aspettavo di più, col dollaro alto, con l'euro basso, con i tassi a zero, con il petrolio basso, così la disoccupazione aumenta dello 0,5, capito? Quindi... poi parla di tesoretto di 1 miliardo, intanto la Grecia ne ha tenuto 40, capito? Insomma, può raccontarci, ci può raccontarci. 40 miliardi. La Grecia ci fotte 40 miliardi come? Cioè, i soldi, i crediti la Grecia non le rimborserà mai. Noi abbiamo 40 miliardi nel forno. Sì, sì, cioè non ce li daranno mai. No, vabbè, ma scusa, no, andiamo a bussare al tuo amico Varoufakis. Andiamo a bussare al tuo amico Varoufakis. Scarciofakis. Sì, il Bertinotti dei poveri. Il Bertinotti dei poveri, perché? Sì. Perché? Ma perché questo al default arriva, capito? È pieno di questa ideologia, è pieno di queste... di un parolaio, invece che stare a trattare, va a fare conferenze in giro. Non ha mai presentato una proposta seria a... per mettere a posto una situazione assurda in Grecia, in cui il 40% del PIL sono stipendi pubblici, le zitelle d'oro, il premio di puntualità. Le zitelle d'oro, cos'è la zitella? Non sai la storia, no? No, cos'è? Vabbè, le figlie nubili, le figlie zitelle dipendenti pubblici hanno diritto a un vitalizio di 1.000 euro al mese. No, ma si sono inventati di tutto e queste cose le hanno pagate quei soldi che... Ho capito, ma cosa c'entra Varoufakis? Dovrebbe dire via tutto. Ma questa via è la Grecia, capito? Loro non vogliono presentare un piano di ristrutturazione serio, capito? Quindi, un paese affondere. Così non può andare avanti pigliando i soldi a prestito, capito? Con 40% dipendenti pubblici a cui danno un premio se sono puntuali. La mattina, allora gli aumentano lo stipendio. Cazzo, un paese serio, capito? C'è chi nega il mare sognando l'Europa come i poveri migranti e chi imbrogliando l'Europa nega nei debiti come la Grecia. Albertone, io ti devo salutare. Ci sentiremo la prossima volta col Milan. Col Milan, magari comprato da qualcuno. Hai sentito di Armani? Che dice che i gay. Ma ha ragione. Cioè i gay, lì, ragione. I gay si vestono da omosessuale. Sì, beh, l'omosessuale è un uomo, non è mica una lumaca. No. Che faccio quel che gli pare, però sempre uomini sono. Certo, non sono lumache, no, questo no. Vabbè, Alberto Forchielli è così. Ciao Albertone, alla prossima! BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Qua, cari ascoltatori, sono le 7 e 18 minuti, pronti a leggere i giornali, a parlare di cosa? Beh, anche oggi parleremo della... fa un certo effetto chiamarla emergenza migranti, è da decine di anni che è così periodicamente, però di questa situazione che conquista ancora le prime 10-15 pagine dei giornali, anzi non lo dico da un bel po', quindi forza debosciati, tutti all'ascolto! Lenti nelle vostre colazioni e nelle vostre preparazioni mattutine, Noi siamo qui in diretta dalle 6.30, quindi svegliatevi! Avremo ospite il procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lovoi, per raccontare anche questa incredibile inchiesta di trafficanti di uomini che erano in Italia e che sono in Italia e che guadagnano milioni di euro e magari avevano, come il caso delle persone fermate ieri, i documenti in attesa di ricevere lo status di profughi. E facevano tratta di esseri umani con gli scafisti. Avremo anche Don Mussi e Zerai, torna ai nostri microfoni, presidente dell'agenzia Abescia. Poi parleremo con l'ex presidente della Regione Lazio, Giulio Santarelli. Parleremo di vitalizi. Dopo. In questo martedì 21 aprile, intanto, i titoli, il Sole 24 Ore apre così, fisco così l'abuso del diritto, il nuovo testo non conterrà il riordino dei reati tributari, slitta a giugno. La questione immigrazione, che per la verità è molto in risalto anche in prima pagina del Sole, piano UE, più mezzi e controlli per gestire l'emergenza. Il Corriere della Sera la vede così: scafisti, boss in Italia con il permesso. L'Europa invece, su Repubblica, l'Europa guerra agli scafisti, agli schiavisti. Per il Messaggero, l'Europa distruggere i barconi. Per il Giornale, gli scafisti se la ridono. Avvenire un mare di morti, ora l'Unione Europea si muove. La Stampa invece è una doppia copertina, la prima con un editoriale del direttore Calabresi è perché la domanda, con la foto di persone che attraversano il Mediterraneo. Ci si chiede perché, cioè cosa spinga queste persone alla ricerca disperata della nuova vita, di rischiare la morte. Libero, l'Italia paga gli scafisti, è il festival dell'ipocrisia. Il Fatto Quotidiano, Renzi spariamo, Prodi sbagliato. E i giudici dicono Triton o Tritone non funziona. Questi sono alcuni dei titoli della questione, l'ampia pagina dedicata all'immigrazione e a queste tragedie, la vedremo più avanti. Prima voglio, come al solito, dare qualche spunto diverso, come quello che dà Libero in prima pagina, facendo un po' i conti, o meno andando a spulciare nel bilancio di Palazzo Chigi, quindi nel bilancio della presidenza del Consiglio. Renzi ci fa spendere 45 milioni in più per le sue liti giudiziarie. Questo è il titolo dell'articolo del vice direttore di Libero, Franco Bechis, che scrive che sia un po' fumino, se ben capito, ogni volta che un'assemblea del PD è in streaming. Matteo Renzi è un professionista della frecciata, della punzecchiatura, del braccio di ferro, e quando punge provoca subito la rissa. Si pensava però che questa tendenza al litigio restasse dentro le mura domestiche e politiche, e invece il Renzi fumino ha fatto sbarcare quel caratteraccio a Palazzo Chigi e costa caro ai contribuenti italiani. Questa è la lettura di Franco Bechis per il fatto che il bilancio e le spese di Palazzo Chigi per liti e risarcimenti passano da 15 a 60 milioni. Il caratterino di Renzi viene definito così, ci costa 45 milioni in più rispetto a quando c'era Letta. È quadruplicato in cifra assoluta, aumenta di 45 milioni di euro, gran parte dello scostamento di bilancio fatto registrare da tutti i capitoli del segretariato generale. Comunque è un elenco delle spese di Palazzo Chigi, le spese correnti, le spese di funzionamento, rimborso spese missione autorità politiche, tutto quello che sono le spese nel nome della trasparenza che sono pubblicate e che sono oggi analizzate da Libero, quanto ci costa il Palazzo Chigi, la presidenza del Consiglio. A proposito di Renzi ieri è intervenuto prima in maniera molto dura dicendo lo sciopero dei docenti, lo sciopero cioè della scuola proclamato credo per il 5 maggio, mi fa ridere. Evidentemente però poi ha un po', come dire, dopo il bastone ha usato la carota, nel senso che Renzi, come racconta il giornale, ma lo racconta anche il Manifesto in una pagina, poi ha deciso di scrivere una lettera agli insegnanti, o meglio a tutti gli operatori della scuola. Il senso è: vi spiego io la riforma. Roberto Ciccarelli ne scrive a pagina 8 del Manifesto: Renzi tira dritto, la riforma la spiego io. Prima si è detto stupito per i motivi dello sciopero generale indetto dai sindacati della scuola CGL, CISL, UIL, SNALS e Gilda per martedì 5 maggio. Incomprensibili motivi a suo avviso. Mi fa ridere, se non fosse una cosa triste, il fatto che si proponga di scioperare contro un governo che sta assumendo 100.000 insegnanti. È il più grande investimento fatto nella scuola italiana. Però questa buona scuola, evidentemente non digerita dai sindacati, ecco che vede la strategia di Renzi contrapporre l'idea dello scrivere una lettera. Anche il giornale la mette così con Francesca Angeli: il premier ora teme lo sciopero e scrive ai professori per convincerli. Questo fa Renzi, e sulla scuola da qui al 5 maggio vedremo se si ricomporrà la situazione. Vi segnalo invece sulla stampa due cose. La prima è una pagina secondo me utile a milioni di italiani che ogni giorno vengono molestati dalle telefonate di chi vi vuole vendere di tutto. Io uso parole terribili, in genere faccio rispondere a mia moglie che è ancora più terribile di me, come si sa, essendo donna. Io un pochino, come dire, ho sempre quella remora morale, sto pensando che dall'altra parte c'è uno che lavora a un call center e magari guadagna vive di quello, anzi se vende un'enciclopedia, se vende un abbonamento ci guadagna qualcosa, e purtroppo è tutto un meccanismo perverso. Però a volte veramente te le tirano fuori dalla bile le parole quando chiamano a ore improponibili. Comunque la pagina è questa, sulla stampa la trovate anche sul Secolo XIX, la stessa pagina vista la sinergia che c'è tra i due quotidiani. I rimedi all'assalto dei call center. Paolo Baroni risponde a questa domanda: come ci si può difendere dalle chiamate promozionali indesiderate? Beh, ci sono 10 punti, non ve li posso sintetizzare. Comunque sulla stampa o sul Secolo XIX li trovate. come reagire e come difendersi da queste molestie. Tra l'altro c'è anche l'intervista a Guido, 29 anni, fino a due anni fa studente di architettura e operatore di call center, che dice: la regola dice sempre insistete, ignorate i no. Ignorate i no, questo è quello che spinge gli operatori a richiamare, anche se uno gli dice: mi togliete per favore e gentilmente da questo maledetto elenco di telefoni che vi siete procurati in maniera non si sa come. E invece io telefonavo e nel breve corso ci hanno fatto prima di iniziare a lavorare ci dicevano: insistete, usate tutti i metodi possibili. I migliori clienti, le donne anziane e sole. Magari chiedevi: le piacerebbe spendere meno? Insomma, un vero schifo. Ma questo è stalking, come altro chiamarlo in alcuni casi. E lei come consiglia di difendersi, visto che ha fatto l'operatore? Oltre a usare le tutele di legge, il consiglio è non ascoltare, attaccare subito e staccare il telefono. Ma perché uno deve vivere così? A libero, a casa propria, di non tenere il telefono? Ma io non lo so. Comunque, sulla Stampa è il Secolo XIX, c'è una pagina di come difendersi dalle chiamate, E siamo al momento dell'articolo che, se siete in macchina, vi fa tenere le mani ben strette sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Se siete con qualcosa di contundente, appoggiate tutto, comprese tazzine del caffè, e non ditemi poi: ho schiacciato la brioche e mi sono macchiato la giacca. Torna Davide Vannoni, il fondatore del metodo Stamina, racconta La Stampa con Andrea Rossi. Recidivo su internet. Il metodo Stamina funziona. Dopo il patteggiamento si era impegnato a non riproporre la terapia, ma è intervenuto insieme al medico Marino Andolina, colui che è il suo braccio destro. Entrambi, Vannoni e Andolina, hanno diffuso la sintesi di un articolo apparso sull'American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, firmato da Marcello Villanova, neurologo, e John Bach dell'ospedale di Newark, considerato il massimo esperto mondiale della patologia SMAL, l'atrofia muscolare spinale. Ebbene, nel postare su internet questo articolo, secondo il quale per Vannoni e Andolina si dimostra la validità delle cure Stamina, scrive Vannoni: ecco il primo articolo sull'efficacia del metodo Stamina. Ancora nessuno scriverà una riga su questo lavoro. Che il pensiero mafioso sia con voi e con l'anima putrefatta degli pseudoscienziati che hanno negato l'evidenza. Così il guru di Stamina, scrive La Stampa, dice in un articolo: due scienziati mi danno ragione, il metodo Stamina funziona. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Ho 4 anni, non so leggere i giornali, ma accolto i soldi. Ma chi sei tu, un genio assoluto, questo bambino di 4 anni? Ma benvenuto, non sai leggere i giornali, non conta, non ti perdi granché a volte, ma ascolti, scherzo ovviamente, ma ascolti la rassegna Stampa obbligato da un genitore terribile, satrapo direi, vabbè, non importa. Comunque grazie caro piccolo ascoltatore. Allora, qui dobbiamo parlare di che cosa? Beh, le prime pagine dei giornali oggi sono davvero intense di foto, racconti, testimonianze, come districarsi in mezzo a tantissime parole sulla vicenda migranti e tragedie. Intanto dicono che ci siano 1 milione di persone pronte a partire, e questo è il dato che il procuratore a Palermo Scalia ha fornito ieri in una conferenza stampa e che inquieta moltissimo. Forse la notizia più importante che oggi prende più spazio sui giornali è quella dell'inchiesta che ha sgominato un traffico di esseri umani che veniva gestito in Italia da persone che avevano il permesso di soggiorno, perché avevano chiesto l'iter per lo status di profughi e gestivano nel frattempo insieme agli scafisti questo lucroso mercimonio di corpi, gestiva il traffico di uomini con il permesso di soggiorno. Pagina 2 del Corriere della Sera, la prima parte del viaggio via terra per arrivare dai diversi paesi dell'Africa fino in Libia è la più costosa, da 4 a 5 mila dollari. Dai porti che si affacciano sul Mediterraneo per avventurarsi nella traversata ci vogliono invece tra i 1.000 e i 1.500 dollari. E chi riesce a sbarcare in Sicilia non ha finito di pagare. Se vuole andare a Roma o Milano deve sborsare ancora 200 o 400 euro a seconda del mezzo di trasporto, macchina, pullman, treno. Infine, per l'ultima tratta, per chi vuole andare in Europa, bisogna pagare cifre dai 500 ai 1.500 euro se si vuole andare in Germania, in Svizzera, in Svezia, in Norvegia. Svezia e Norvegia, come potete capire, sono le più lontane, dunque le più care. Il pacchetto completo è offerto a un'unica condizione: pagamento anticipato di ogni tratta in contanti o attraverso intermediari di fiducia nei due continenti. Questo è il senso dell'operazione sgominata a Palermo che ha portato all'arresto di Ashgedom Germai, che aveva chiesto asilo politico e ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo in attesa della conclusione delle pratiche, e intanto faceva questo insieme ad altri. Ci sono le intercettazioni: in casa ne ho 117, dormono in piedi, tra poco li facciamo partire, c'è molto movimento in Libia, le cose vanno bene. Tutti dialoghi di questo genere che fanno veramente raccapriccio. Guardate il giornale, a un certo punto intercettati dicono: uno, ho una casa da 13 milioni di euro, e l'altro, potrei tornare ad Addis Abeba e vivere coi soldi che ho fatto per 20 anni. Ecco, questa è la notizia più forte, no? Anche il giornale: gli affari d'oro degli schiavisti, la tratta umana vale 34 miliardi, è Fausto Biloslavo che ne scrive a pagina 3. Nel mondo un business da capogiro, in Italia nel 2014 il guadagno è stato di 1 miliardo, ma coi numeri da record nel 2015 il dato potrebbe sestuplicare. Ogni emigrante vale infatti in media tra gli 8 e i 12 mila dollari, le cifre le abbiamo dette, prima per arrivare in Libia, poi per fare la traversata, se si riesce, poi per andare magari in qualche paese dell'Europa. Anche eccolo qui l'articolo di Libero che fa molto arrabbiare: la base del traffico di profughi era il centro di accoglienza. Manette per 24 stranieri, una decina risiedeva nel CARA, cioè nel centro di accoglienza di Mineo in provincia di Catania. A proposito invece della tragedia avvenuta a bordo, quante persone c'erano ancora non si capisce, alcuni dei sopravvissuti sono arrivati ieri a Catania, il Messaggero ha l'articolo più interessante sulla dinamica, perché non è esclusa l'ipotesi di una collisione alla base di quello che è successo. La collisione tra chi? Beh, tra chi? Il portacontainer da 147 metri che è andato lì per salvare questi migranti, il King Jacob, e non importa, scrive il Messaggero, che il comandante del King Jacob abbia ripetuto fino alla noia che non li abbiamo neppure sfiorati. La magistratura di Catania non crede affatto a questo. E in mare le operazioni non sono semplici. Come scrive Nino Cirillo a pagina 7 del Messaggero, una delle ipotesi della procura è che sia stato proprio un contatto tra la nave dei soccorritori e il barcone dei migranti ad aver provocato il rovesciamento del barcone stesso e dunque la morte di, secondo i testimoni, fino a 700 persone. Questo però per quel che riguarda la dinamica. Vi risparmio le foto, i resoconti. Per esempio Repubblica riesce a entrare nell'obitorio di Malta, dove vengono raccolte alcune delle vittime che sono state raccolte in mare. Ovviamente molto spesso rimangono senza nomi, solo con dei numeri vengono identificati. Ho la foto per esempio a pagina 8 del Corriere della Sera di un soccorritore che porta un ragazzino il cui corpo chiaramente è afflosciato, morto. Lo trasporta da una barca sul molo a Catania. Fiorenza Sarzanini racconta il che cosa si fa, e anche qui a capire che c'è una grande confusione abbastanza evidente. L'Europa giovedì darà una risposta, c'è questo summit straordinario dei paesi dell'Unione Europea. Ma guardate qui, basta mettere a confronto due giornali, Il Fatto e Il Corriere. Corriere della Sera, il modello Somalia contro gli scafisti, cioè i droni per distruggere le barche. Lo schema dovrà essere messo a punto dai vertici militari, l'ipotesi rimanda a quello sperimentato in Somalia. E utilizzare i mezzi aerei, in particolare i droni, per compiere azioni mirate e annientare la flotta dei trafficanti. Quindi modello Somalia per il Corriere della Sera. Uno va sul Fatto Quotidiano, il modello Somalia non è replicabile. Ecco, questo. Il Fatto Quotidiano, Giampiero Gramaglia spiega che nel Corno d'Africa contro la pirateria si svolgono varie e vere azioni militari. Nell'acqua del Maghreb la situazione è diversa e non è replicabile la stessa situazione. Capite che non è facile una situazione del genere, e quindi è difficile anche una risposta. Comunque ne parleremo alle 8.15, continueremo a trattare questo tema. Per quel che riguarda la politica, la notizia politica del giorno è certamente questa: Renzi è passato alla sostituzione, o meglio il Partito Democratico, perché legge elettorale, settimana decisiva numero 103 della riforma elettorale, l'abolizione delle province. In commissione affari costituzionali bisogna votare il testo che verrà poi passato alla Camera per la definitiva e terza approvazione, quella finale. Però ci sono all'interno della commissione alcuni del Partito Democratico, 10 nello specifico, che hanno detto noi voteremo contro. Allora che fa il Partito Democratico? Li sostituisce. Sostituiti i 10 dissidenti in commissione del Partito Democratico. Ci sono tutti i nomi, i più famosi sono Bindi, Bersani, Pollastrini, Cuperlo e altri. Dino Martirano sul Corriere della Sera: Italicum al voto senza i 10 dissidenti, il PD sostituisce i deputati della minoranza contraria alla legge elettorale, è una mossa che non ha precedenti alla Camera, e anche quella ordinata al Senato in occasione del voto sulla riforma costituzionale riguardava solo 2 parlamentari, è una sostituzione ad rem, cioè solo per questo provvedimento. Poi torneranno lì in commissione. Rosato, che è il vice capogruppo, sostituisce Roberto Speranza, capogruppo dimesso alla Camera del PD per questa vicenda, dice: ma che epurazione! Non è un'epurazione, è un meccanismo che ci consente di decidere. Così sul Corriere della Sera si difende dalle accuse, mentre Rosi Bindi attacca e dice: se è questo il metodo, altro che i 101 di Prodi. Ricordate i 101 che impallinarono Prodi alla presidenza della Repubblica? Certo, rischia di esserci qualche conseguenza con questo atteggiamento, dice così alla Stampa, intervistata da Ilario Lombardo, Rosi Bindi. Questo è il metodo. Non la pensi così? Sostituzione. Il tecnico Mauro Meazza chiama il cambio al 70° della Commissione Affari Costituzionali. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Ma è un po' come quando cambi alla fine dei supplementari per tirare i rigori. Sì, infatti, è vero. Metti il rigorista. Esce il giocatore meno abile a tirare il rigore, entra il rigorista titolare e poi dopo naturalmente non fa altro che tirare il rigore, insomma, questo mi ricorda un po' questa. Ma parliamo di calcio oggi, intanto ci sono delle trattative in corso importanti, ne riferiamo anche sul Sole 24 forse Ore forse per la mia squadra? Con Mister B, che già non so, io dire Mister B è un milanista, come dire, ti piace già, te gusta già, ho delle difficoltà, guarda, non vorrei rivangare un passato doloroso. Volevo dirti, sempre sul Sole 24 Ore oggi, un invito abbastanza importante: se venite all'Expo, e veniteci perché vi aspettiamo senz'altro, però meglio se fate la metropolitana. Non è che lo dice il Sole 24 Ore, lo riferiamo da quello che ha detto un po' il commissario Sala, perché ci sono state un po' di difficoltà nel finire la visibilità, ma di tutto questo ti spiega Sara Monaci oggi sulle pagine di Imprese e Territori. Meglio la metropolitana. Metropolitana possiamo garantire che vi porta proprio direttamente sull'area, quindi insomma ricordatevi che il biglietto va fuori dalla tratta urbana. Questa è un'informazione di servizio in puro stile Sole 24 Ore. Poi oggi giornata decisiva. Oggi proprio. Proprio sì, sul Milan, anche ho letto su un giornale, settimana decisiva, giuro, settimana decisiva. Non siamo in una decisività costante. Volevo dirti settimana, non settimana, mi fai sbagliare. Giornata decisiva. Sì. No, giornata decisiva in Consiglio dei Ministri per il fisco, perché aspettiamo il varo di una serie di provvedimenti sull'abuso del diritto, cioè insomma quando uno usa gli sconti fiscali in modo un po' troppo disinvolto, e anche soprattutto sul raddoppio dei termini, che è la possibilità appunto di estendere la prescrizione all'indietro, e quindi questa mancanza di chiarezza finora, ma oggi giornata decisiva risolviamo, ha un po' frenato il rientro dei capitali. Tu che devi riportare i tuoi due urini lì, da dove li hai messi? Sì, non ecco. Diciamo. Tra l'altro vai nelle pagine norme tributi, perché ti spieghiamo sempre a proposito di rientro dei capitali. È inutile che adesso prendi la residenza in Svizzera per dire che così non hai portato i teorini di là. È tardi. Perché, no, oramai se li hai portati quando eri residente in Italia ne rispondi ugualmente. Questo, vabbè. Ti spieghiamo tutto nelle pagine norme tributi, adesso non te diamo gli ascoltatori per due urini, sta a guardare veramente il cappello. Anzi, a proposito di guardare, c'è una bella foto tua, diversa dal solito, pagina 23. Come no, se vuoi poi mostrarla agli ascoltatori, oppure più semplicemente anche recandosi in edicolo, anche con tablet, computer, guardando sulla 24, la pagina 23, bella foto. Vorrei sapere quanti comprano il sole per vedere una mia foto. Ma no, ci sarà qualcuno che lo fa. Ma no, perché devi buttarti così giù? Insomma, sei un personaggio, e quindi può darsi che ci sia un'attenzione particolare. Poi volevo anche ricordarti, oggi è martedì, sì. No? Martedì, giornata decisiva per il fisco italiano, ecco, ma siccome è martedì, condominio, come hai già intuito, condominio, in particolare segnalo il posizionamento delle antenne sui terrazzi, e che maggioranze ci vogliono in assemblea, non sottovalutiamo il problema, mi raccomando, tieni da parte che poi domani ti interrogo. A proposito di domani, ti diamo la seconda puntata del nostro tabloid, del nostro allegato, sul 730 precompilato. Hai scaricato il 730 precompilato? No, ancora. No, io non so più cosa fare con te. Comunque domani ti diamo una seconda uscita, la prima è stata mercoledì scorso, è ancora disponibile sul nostro sito, e domani ci sarà la seconda puntata. E poi veramente da giovedì, domani pomeriggio, non hai più alibi per non scaricarti sto 7.30 precompilato. Ecco. E a questo punto, tutto ciò premesso, traffico! Milan, quante chiacchiere che dite al mattino! E allora siamo qua a dire chiacchiere, caro ascoltatore, alle 7.50 minuti. Allora, dal punto di vista politico, c'è un'altra grana per il Partito Democratico in Sicilia, dopo che abbiamo raccontato nei giorni scorsi quella di Agrigento, dove ha vinto uno le primarie del PD, ma il PD l'ha tolto, e adesso costui è candidato forse da Forza Italia. Succede questo nella politica italiana. Succede che cosa? Che Vladimiro Mirello Crisafulli, che abbiamo avuto ospite 10 giorni fa, e ha detto mi candido a Enna, nonostante fosse considerato incandidabile in Parlamento un paio d'anni fa, si è candidato, ha stravinto le primarie con il 73,7%, ma il PD ha deciso lo stoppa. Crisafulli vince le primarie, il PD lo stoppa, l'ex senatore trionfa Enna, ma racconta Emanuele Lauria su Repubblica. Guerini, cioè il vice di Renzi nel PD, chiama il segretario regionale del PD Raciti e dice non sarà il nostro candidato, ma il partito siciliano non si allinea, e quindi nuova grana in Sicilia. Mirello Crisafulli viene intervistato dal Corriere della Sera da Felice Cavallaro, dice ho avuto il 73%, non aspiro certo a un abbraccio come Renzi ha dato a De Luca, ma Renzi rispetti chi vince, non aspiro all'abbraccio, c'è di meglio, ma ha fatto bene Renzi ad andare da De Luca. Non vorrei pensare comunque a una questione personale nei miei confronti. Siamo l'unica provincia italiana in cui Renzi non ha vinto, perché Crisafulli è un cuperliano. gli ricorda ancora Felice Cavallaro l'incontro anni fa con un boss nella hall di un albergo. E risponde Crisafulli: e chi sapeva che era boss? Voleva un appalto, gli dissi di farsi i cazzi suoi, di non immischiarsi in affari che non gli competevano. Semmai, ecco come fare antimafia. Mentre c'è gente che parlando di antimafia fa affari e nessuno li fa dimettere perché intoccabili. Insomma, Crisafulli dice: la vera antimafia sono io, che ho detto questo al boss. Vabbè, a sinistra problemi, a destra più che divisioni, quasi sfasci, anche se Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, fa un'intervista al Corriere e dice: non ci sono divisioni interne, Silvio sta tornando in campo e tutto sembrerà robetta. La vera notizia che riguarda Berlusconi la dà Libero. Secondo Libero, Silvio torna statista e si propone a Renzi per fare il commissario straordinario per i migranti. Torna un po' la fase del "ghe pensi mi". Io so come si fa con i rapporti internazionali che ho. Domenica il Cavaliere ha proposto un tavolo formato da former presidents, cioè ex presidenti, lui, Enrico Letta, Mario Monti, Romano Prodi, un modo per mettere al servizio del paese esperienze e relazioni. Pensa al modello Tony Blair, vorrei fare il commissario straordinario per l'immigrazione. Questa sarebbe la proposta che Silvio Berlusconi lancia a Renzi, racconta così Libero. Anche se Repubblica racconta che il vero motivo che vuole fare Berlusconi, la vera mossa che vuole fare Berlusconi, è tornare a riallacciare rapporti con Renzi e quindi far rinverdire il patto del Nazareno. Staremo a vedere. C'è una pagina molto bella ovunque sui giornali sul rapporto tra ultra e tifosi. Sapete che è un rapporto in Italia molto molto complicato. E infatti la storia che viene da Bergamo è abbastanza emblematica. Bergamo, il patto tra società e ultra. Ne scrive il Messaggero con una pagina, ne scrive anche Repubblica una pagina. Ultra condannati dalla giustizia penale, ma l'Atalanta, cioè la società Li Grazia, ritira la querela dicendo: questi tifosi si sono pentiti, si sono impegnati con noi per fare volontariato presso la Caritas. È ovviamente polemica, c'è anche un'intervista sul quotidiano Il Giorno all'ex grande campione Sandro Mazzola che dice: i club in Italia, le società hanno le mani legate, serve la cura Thatcher come in Inghilterra contro gli ultra. Vabbè, siamo in conclusione perché ci sono tanti articoli da leggere ma non si fa mai in tempo. Allora, visto che siamo anche in diretta su Periscope, vedo qui Lorenzo Nespoli, giuro che è l'ultima volta, Selvaggia. Ti giuro che è l'ultima volta. Ma Selvaggia Lucarelli vince anche oggi la carta costa, poi basta per un po', Selvaggia. È una promessa. La guerra dei gay, Armani, un'intera pagina, Armani che dice: non vestitevi come omosessuali, anche se siete omosessuali. No all'esibizionismo, vestitevi in maniera molto molto precisa, vestitevi come uomini, vestitevi Armani, ecco, Armani. Ma chi se ne frega? BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnasso randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8 e 22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, sulla pelle dei morti e dei migranti la politica, sapete, litiga. Ognuno pensa di avere in tasca la soluzione, eh? Vi facciamo sentire tre robe brevi. Santanché. Qua deve alzarsi la nostra aeronautica militare, la nostra marina militare e andare ad affondare tutti i barconi. affondare i barconi. Salvini. Io mi sono riletto le parole del Dalai Lama, che disse che l'accoglienza non basta, il buon cuore non basta, bisogna avere il coraggio di dire quando il troppo è troppo e intervenire nei loro paesi per costruire là una società migliore. Se non l'avesse detto il Dalai Lama, Matteo Salvini sarebbe uno sciacallo brutto, pericoloso e razzista. L'ha detto fortunatamente sua santità il Dalai Lama. Il Dalai Lama dice aiutiamoli là, poi però si scopre che diamo lo 0,13% del PIL per la cooperazione internazionale, un sesto di quanto dovremmo dare. È facile aiutarli là senza soldi. Renzi. In questo momento io escludo la possibilità della presenza di uomini di terra. Altro è una serie di interventi mirati sui nuovi schiavisti che vanno assicurati alla giustizia. No truppe, ma interventi mirati, chissà, forse bombardamenti. Vabbè, ognuno pensa di avere la soluzione. C'è da dire che oggi sui giornali colpisce molto quello che si legge nelle prime pagine. Per esempio, guardate il titolo di pagina 2 del Corriere: gestiva il traffico di uomini con il permesso di soggiorno. È ciò che ha scoperto la procura di Palermo. 24 arresti. Alcuni appunto erano persone così che erano in attesa dello status di profugo, avevano il permesso di soggiorno temporaneo e gestivano questo grande business criminale. Saluto il procuratore, ringrazio il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, che è con noi. Buongiorno procuratore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, ieri voi avete dato le cifre, quanto costa, quanto si lucra in media su uno di questi disperati che vengono da noi? La media accertata sulla base delle indagini che abbiamo effettuato principalmente attraverso le intercettazioni telefoniche oscilla intorno ai 5.000 euro a persona, considerando l'intero percorso dal paese di origine fino al paese di destinazione. 5.000 euro. All'incirca 5.000 euro. Ma com'è possibile che persone che, come nel caso di alcuni dei fermati da voi, che erano di fatto regolari o in attesa di una regolarizzazione in Italia, fossero a capo di questa gestione criminale? È possibile perché si tratta di soggetti che sono stati liberi sul territorio italiano, dal quale non si sono spostati, e la loro presenza ha consentito di mantenere i contatti con alcuni dei trafficanti sulle coste nordafricane in modo tale da fare realizzare questa attività di trasporto e di ricezione dei migranti che arrivavano sui barconi, che arrivano, che continuano, certo, ad arrivare sui barconi. E procuratore, di che reati rispondono queste persone? Cioè cosa rischiano? Quando si dice colpire gli scafisti li si può anche, o i trafficanti li si può colpire proprio così, cioè andando ad arrestare. Guardi, alcuni dei soggetti che sono stati arrestati nella prima tranche di questa indagine, che si è conclusa diversi mesi addietro, sono stati già condannati, chi a 20, chi a 30 anni di reclusione. Attualmente i soggetti nei cui confronti abbiamo proceduto ieri ai fermi, cioè agli arresti, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di esseri umani, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed anche di abusiva raccolta del credito, per così dire, un reato specifico che si lega al tipo di transazioni finanziarie che operavano per consentire e facilitare i pagamenti da parte dei migranti. E ovviamente le pene verranno stabilite successivamente. Questo è chiaro, questo è chiaro. Senta, procuratore, ha sentito, per carità, lei non è un politico, ma ognuno pensa di avere la soluzione in tasca. Come si ferma, secondo lei, da uomo di legge, questa ondata? Ma guardi, queste sono scelte politiche nelle quali non mi permetto di intervenire e di interferire. L'unica cosa che registro sono le parole, le alte parole che ha pronunziato solo domenica scorsa Sua Santità il Papa Francesco ed anche il nostro Presidente della Repubblica, che hanno entrambi richiesto un deciso intervento. Il deciso intervento significa cambiare qualcosa sulle politiche che sono finora state adottate. Perché la domanda che si pongono tutti, l'uomo della strada, è se le politiche di regolazione, di contenimento dei flussi, qualcuno dice di respingimento, cioè qual è la politica migliore, quella più efficace proprio dal punto di vista, senza essere, come dire, senza fare una decisione politica, ma quella che rende il fenomeno più regolare e più gestibile. Ma guardi, le difficoltà politiche dei territori di origine di questi fenomeni di migrazione chiaramente non facilitano l'adozione di una scelta politica e non facilitano la scelta politica stessa. È evidente tuttavia, e ripeto, non è mio compito avventurarmi in valutazioni ed individuazioni di scelte che non competono a me, sì, ma competono alla politica nazionale ed europea, è evidente che la prima causa di questi fenomeni migratori risiede nelle condizioni geopolitiche dei territori di provenienza ed anche dei territori attraverso i quali i migranti si muovono. Spesso purtroppo ci sono guerre. Senta, ieri dalla Procura di Palermo è arrivata questa cifra che un po' ha spaventato. La chiedo a lei come conferma, dottor Lovoi. È vero che ci sono 1 milione di persone pronte a partire dall'Africa? Ma guardi, è una cifra approssimativa che evidentemente deriva dal numero di migranti che sono stati registrati fino a questo momento in arrivo sulle coste siciliane e da alcuni calcoli che vengono effettuati dagli stessi criminali che abbiamo intercettato nel corso delle loro conversazioni. Di sicuro il flusso in questo momento appare difficilmente contenibile e lo si è visto e lo si è registrato anche tragicamente purtroppo in queste ultime ore. Non si tratta più di barconi con 20-30 persone, di gommoni con 20-30 persone come accadeva prima, adesso si tratta di vascelli un po' più grossi, anche se chiaramente pericolosi ed instabili anche quelli, in cui si arrivano a caricare fino a 700-900 persone per trasporto. È chiaro rendersi conto che c'è una forte richiesta ed evidentemente c'è un'offerta che sta affinando le sue capacità. E purtroppo sì. Tra l'altro molti ovviamente si chiedono come si fa a racimolare 5.000 euro per persone che vengono da paesi dove in alcuni casi la paga, che ne so, media può essere anche di $1 al mese, $3 al mese, $10 al mese. E infatti c'è gente che sta per lungo tempo ad attendere prima di essere caricata sui barconi. I viaggi avvengono, come è stato spiegato, in diverse tratte, prima dai territori di origine fino alle coste nordafricane, quindi il trasporto via mare, quindi il trasporto dalle coste del sud Italia, cioè dalla Sicilia, verso il nord Italia, ed ancora da ultimo l'ultima fase verso i paesi di destinazione, quasi tutti nord europei. Ciascuna di questa tratta, di queste tratte, prevede un pagamento specifico, anticipato, variabile in funzione del mezzo di trasporto utilizzato anche. E ovviamente, non so, recupereranno i soldi da parenti, da persone. Il denaro viene racimolato piano piano, viene fornito da familiari, certo, o amici o gruppi della stessa etnia che si sono magari già insediati nei territori di destinazione, nelle nazioni di destinazione, e che in questo modo aiutano i loro familiari o i loro amici a raggiungere. Quasi un investimento per un viaggio della speranza. Senta, si tratta di questo. Però, procuratore Lovoi, c'è un'altra indagine a Palermo che in qualche modo è stata offuscata, almeno giornalisticamente parlando, dalla tragedia recente, e quella che ci aveva inquietato qualche giorno fa quando si raccontava di migranti buttati in mare in quanto cristiani da migranti musulmani. So che voi state indagando, ovviamente ci saranno testimonianze. Che cosa ci può dire riguardo, perché questa cosa ha inquietato leggendola nei titoli di giornali? È credibile che la motivazione sia quella? Ma guardi, su questo punto, fermo restando che ovviamente siamo ancora in una fase di indagini preliminari, su questo punto posso dirle che le testimonianze dei superstiti sono state tutte molto concordanti su questo punto, e che i superstiti, appunto, che hanno immediatamente denunziato, appena messo piede a terra, quello che era accaduto a bordo della barca, hanno senza esitazione e concordemente riconosciuto gli autori di questo, di questi omicidi. Cioè, dicendo, lo hanno fatto perché erano musulmani, loro dicono così. Questo è il racconto che è stato fatto, che è stato in prima battuta ritenuto attendibile dal giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato i fermi e disposto la custodia in carcere di tutti quanti, si procederà adesso, proprio in queste ore, all'effettuazione dell'incidente probatorio, durante il quale questi testimoni verranno ascoltati alla presenza degli accusati e dei loro difensori, quindi con la pienezza del contraddittorio. È evidente che è un'indagine che ancora deve essere ulteriormente. È molto delicata, chiaramente. L'ultima domanda è questa, che in qualche modo si lega il rischio, e tutti gli italiani se lo chiedono, non solo gli europei, che possa esserci anche un'infiltrazione terroristica o comunque di estremisti attraverso lo strumento dei viaggi nel Canale di Sicilia. Ma senta, io ho già detto, e non posso che confermarlo, che noi non abbiamo elementi che possano farci ritenere l'esistenza attuale e concreta di questo rischio. Che i terroristi DOC, per così dire, si infiltrino sui barconi non mi sembra altamente probabile. È altrettanto possibile, tuttavia, che salgano sui barconi e arrivino sui nostri territori dei soggetti che comunque sono cresciuti o hanno vissuto dei momenti e dei periodi di tensioni religiose all'interno dei loro paesi. Questo potrebbe essere, insomma, il rischio, che siano un po'. Ma siamo sempre nell'ambito delle possibilità. È chiaro. Io intanto la ringrazio molto, Francesco Lo Voi, procuratore della Repubblica Palermo, grazie per essere giornata. Stato con noi. Altrettanto il numero per intervenire, se volete, 800 24 00 24, qualche ascoltatore, se volete dire la vostra, tanto ormai vi sentite i politici, ognuno ha la ricetta in tasca di come fare. Poi attendiamo l'Europa giovedì, un vertice straordinario dell'Europa, poi parleremo anche di un'altra vicenda, e tra poco avremo un ex presidente della regione Lazio. Perché ho fatto ricorso contro il taglio dei vitalizi. Mannaggia. I diritti acquisiti. Vabbè, tra poco. Allora, 800 24 00 24, questo è il numero di telefono, sapete, se volete intervenire da noi. Parliamo ora di vitalizi, in attesa di capire. Dovrebbe essere la settimana in cui si decide sui vitalizi agli ex deputati e senatori che hanno subito una condanna. Oddio, doveva essere la settimana da un po' di tempo. Non dico che sia la settimana decisiva per non scadere nel ridicolo anch'io, ma era stata rinviata la decisione da mercoledì scorso. Ma ora vi vogliamo raccontare invece la vicenda che riguarda gli ex, se volete, consiglieri regionali. Sapete che in varie regioni ci sono stati dei ricorsi, molti sono portati avanti dall'avvocato Maurizio Paniz. Ricordava Sergio Rizzo sul Corriere della Sera qualche giorno fa che anche in Lazio 78 ex consiglieri su 272, circa un terzo, hanno fatto ricorso contro una legge regionale che ha previsto una sforbiciata del loro assegno, del loro vitalizio. Tra i ricorrenti c'è anche un ex presidente della Regione Lazio, Giulio Santarelli. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Lei, oltre che ex presidente della Regione Lazio, è stato anche un parlamentare. E quindi stato parlamentare e sottosegretario di Stato. Esatto, come sottosegretario però non mi risulta. C'è niente. Quindi ha due vitalizi, giusto? Sì. Due vitalizi. Per un totale, possiamo farle i conti in tasca, ogni mese 7.100 euro. 7.100 euro netti o? Netti. E come sono? Tanti, abbastanza. Allora, io vorrei però farle presente alcune cose. Sì. Che noi ex consiglieri regionali avevamo inviato una lettera al Presidente del Consiglio regionale dimostrando la nostra disponibilità a dare un contributo volontario permanente e non una tantum valido per tre esercizi come quello fatto dalla Regione Lazio. Di quanto questo contributo? Era noi avevamo chiesto un incontro per discutere modalità, entità e modi di impiego. Non ci hanno manco risposto. Ah. Perché loro avevano bisogno. Avevano già fatto la legge loro. Prima che facessero la legge. Loro avevano bisogno di fare la faccia feroce per nascondere tutte le magagne in atto alla Regione Lazio. Le faccio un esempio: con le riduzioni dei vitalizi la Regione risparmia 2 milioni. Sì. Con i dirigenti assunti a contratto e che il TAR ha annullato ma che nessuno licenzia, spendono 10 milioni. Però questo, Presidente, mi scusi, può essere accusata di benaltrismo lei, a dire. No, abbia pazienza. Questa è una sua valutazione assolutamente sbagliata. perché non si vuole discutere circa l'impiego? Perché se lei mi dice che le riduzioni dei vitalizi servono per ridurre il deficit regionale o ridurre le spese del Consiglio regionale, lei dice ci sono soluzioni migliori e più efficaci, più che portano più tagli. No, ma voglio dire, le faccio un altro esempio. Io ho lasciato la regione nell'83, dal 70 a 13 anni, non ho preso nessun TFR. Dal 96 i consiglieri regionali prendono il TFR, cioè il trattamento di fine mandato. Gli stipendi che prendono attualmente sono 14.000 euro, noi prendevamo 6 milioni, che è un quarto di quello che prendono oggi. Allora, vogliamo fare un ragionamento complessivo su che cosa stanno diventando le regioni da quando sono stati aboliti i comitati di controllo? Hanno voluto farsi la faccia bella e presentarsi al pubblico, ma in realtà faccio le magagne di famiglia. E questo non è bene. Cioè, la stampa e la televisione e i giornali farebbero bene ad andare a indagare tutte le magagne. Qui si approvano lottizzazioni per distruggere i territori, come è successo nel mio comune, per distruggere 50 ettari di vigneti e metterci dentro 1.350.000 metri cubi di cemento per 13.000 abitanti. E non si dice niente. Ma guarda che ci sono però le inchieste giornalistiche sugli sprechi. C'è, no, chi, c'è chi dice vanno di ma come qua. Dico, ci sono inchieste a dire vanno abolite le regioni, sono il vero magna magna, sono il vero spreco. Ma questo è un punto, però io non ho visto nessun giornalista, e io apprezzo molto Sergio Rizzo, mi accingo a fargli una lettera per dimostrare la validità dei miei ragionamenti, che non pretendo di avere ragione, però credo che abbia una validità. Tiene le sue posizioni. Allora, insomma, è mai possibile che dopo 40 anni le leggi fatte nella prima legislatura regionale sull'onda della fase costituente oggi vengano rese inutili, però, e distruggere il territorio, l'agricoltura, l'ambiente, il paesaggio, l'archeologia. Però mi scusi, Presidente Santarelli, cioè, vi hanno chiesto un contributo minimo, immagino, su 7.100 euro, che è una paga sontuosa. No, abbia attento, il contributo era sul vitalizio regionale, che poi loro si sono arrogati il diritto di mettersi anche, di legiferare anche su cose che non si competono. Ma lei fa una battaglia con la regione, ma il cittadino che vede che questa io sono cosa. Pronto a dare il contributo permanentemente esteso anche ai soggetti della reversibilità, mi sono spiegato o no? Qui non c'è nessuno che è avaro e che non comprende la situazione di particolare difficoltà in cui versa il paese. Sì, ma lei era pronto come altri a dare un contributo. La regione ha risposto picche, dice facciamo la legge, il risultato è che lei ha fatto ricorso, quindi se vi litigate giudiziariamente tra voi e la regione, alla fine il cittadino non arriva niente. Anche dove dovessimo vincere il ricorso, io sono pronto a dare ugualmente il contributo, però hai il diritto o no di dire alla regione esaminiamo quali sono gli sprechi enormi, i deficit, la mala politica, le illegalità che ormai sono radicate nei comuni, nelle regioni e che vedono congiunti destra e sinistra? Non vogliamo fare questo ragionamento? Facciamolo. Compete a me, perché io non ho nessun ruolo, io adesso faccio l'agricoltore, adesso che ho finito con lei vado in campagna a scacchiarmi la vigna. Che fa? C'ha la vigna? Ho la vigna qui, produco degli ottimi vini, le due ultime medaglie, una d'oro e un'argento, l'ho presa in Corea alla Wine Trophy Asia, straordinario, di ottobre scorso in Corea. È come D'Alema, quando si finisce... No, D'Alema è un altro ragionamento, lei è arrivata adesso, non credo che va la vigna a scacchiare, io ci vado. Va bene. Quindi io quando ho fatto il sottosegretario all'agricoltura, ho fatto un progetto per rivalutare la qualità dei vini. Ma lei vuol dire, parliamo dei veri scandali delle regioni, non attaccatevi a questa inezia del vitalizio. Sii attento, ormai essendo stato abolito, va in esaurimento, quindi non è più un grande argomento su cui bisogna litigare, mentre la legalità, quella che Sciascia chiamava il messia della legalità, non c'è più nelle regioni. Questi qui distruggono, tenga conto che nei castelli romani negli ultimi 20 anni la popolazione è raddoppiata, stiamo diventando la periferia di Roma, stiamo diventando come Finocchio, come Torbella Monaca, non è possibile assistere a questi scempi, sono tutte gru, e c'è una legge, la legge 10 del 77, quella Bucalossi, che impedisce di rilasciare permessi di costruzione nelle zone prive di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Vabbè, mi faccia capire, quindi Santarelli, secondo lei i 78 che ricorso al TAR fanno bene per una questione di principio? No. Se lei ha fatto un ricorso, pensa di aver fatto bene. Vuole ascoltare la mia interpretazione. Certo, sono stati costretti a farlo. Io nel 2008, quando ci ridusse del 10%, sì, io mi rifiutavo di fare ricorso. Ma nessuno la costringeva a fare adesso ricorso. Adesso è una questione di principio. Tu non puoi prendere di petto, è diventato lo sport nazionale, piantiamola, andiamo a vedere i problemi reali, tanto più che, ripeto, io ogni tanto vado a qualche funerale, stanno venendo a esaurimento i vitalizi, a meno della gente che ha fatto il consigliere regionale, sì, gli altri nei primi 20 anni. Non è un problema. Quindi è ormai risolto perché sono stati aboliti. Vogliamo parlare invece di che cosa stanno riservando ai nostri figli, ai nostri nipoti, questi delinquenti, letteralmente delinquenti, che stanno distruggendo l'agricoltura, l'ambiente, il paesaggio, l'archeologia, questa lottizzazione è a fianco e a confine col parco dell'Appia Antica, qui non si ha più rispetto nemmeno per le grandi vestigie dell'antichità. Ma lei dice che questi sono i veri problemi, però Santarelli, mi faccia fare questa domanda, lei come definisce il suo stipendio, chiamiamolo stipendio, da 7.100 euro, è tantissimo, tanto, è normale? Allora, io non lo definisco, nel senso che quando io sono diventato consigliere regionale non ho avuto nessun'altra occupazione, perché sapevo che c'era il vitalizio. Questi signori qui che si sono dati il TFR, che si sono aumentati, arrivano a 14.000 euro al mese per lavorare un giorno alla settimana. Un giorno forse un po' poco. Si accingono ad assumere altre 200 persone negli uffici di presidenza del Consiglio regionale, ci sono 91 persone, non c'è nemmeno Obama, capito, la Casa Bianca. No, ma capito, però è uno spreco infinito prendersela solo. Io dico, mettiamo ma è una guerra, posso dire, Santarelli, che sta facendo una guerra tra ricchi, cioè chi guadagnava un abbastanza e chi ora guadagna uno sproposito, ma il cittadino, cioè il 95% di chi ci sta ascoltando, se non il 99, guadagna 800 euro, cioè che pensa di questa battaglia? Lo abolisci il TFR, visto che nei primi 20 anni non c'è stato il TFR per i consiglieri regionali? Lo rapporti il tuo stipendio a quello del sindaco capoluogo, conseguentemente al provvedimento del governo Monti del 2011. Il cittadino dovrebbe pensare questo. Non fai la legge per evitare il consumo di suolo agricolo come stanno facendo molte regioni italiane. Non si fa nulla delle cose concrete. Invece se la prendono col vitalizio. Stiamo degradando, stiamo diventando, come dire, aree marginali, degradate. Non è possibile continuare a chiudere gli occhi di fronte a queste realtà. Allora, il vitalizio c'è e noi siamo pronti a dare il nostro contributo. Perfetto, Santarelli. A condizione che lo fanno tutti pure, però. Certo, non anche questo. Il vitalizio è diventato questa bandiera. C'è per esempio Giordano sul TG4 Gilletti, per i quali sembra che i problemi dell'Italia sono il vitalizio. Ma nessuno dice che il problema dell'Italia è il vitalizio, ma si può iniziare da una cosa, se ne può. Benissimo. Allora, mettiamoci seduti, discutiamo. Noi siamo pronti a fare, ripeto, non per 3 anni una tantum, per gli esercizi 2015, 2016 e 2010, ma permanentemente, e questo l'ha detto, una riduzione permanente. Va bene, intanto le auguro una buona giornata tra le sue vigne. Che vino fa? Si faccia un po' di pubblicità. Io faccio un po' di Frascati e un po' di vini di carattere con i vitigni internazionali, che riscuotono grandissimo successo, perché in Italia prendono regolarmente i premi dei 5 grappoli di Bibenda, e nel mondo ho preso una medaglia d'oro in Svizzera l'ottobre scorso in Corea, e così via discorrendo. Allora, grazie, buona giornata. Si fermi qui, se no sforo con il traffico. È stato chiarissimo nella sua esposizione. Giulio Santarelli, ex parlamentare, ex sottosegretario, ex presidente della Regione Lazio, 7.100 euro netti di vitalizio. Traffico. E allora dai, Adriano da Roma che ci chiama all'800240024. Che c'è, Adriano? Che vuole dire? Buongiorno, innanzitutto vorrei ricordare che Giulio Santarelli è stato sindaco di Marina per circa 20 anni, e lo scempio urbanistico che c'è è figlio suo. Va bene, adesso questo adesso non è qua a replicare. Sì, no, per carità. Comunque sia, per quanto riguarda i vitalizi, i famosi diritti acquisiti, io sono d'accordo con lui, ma una sola condizione: che ci sono milioni di italiani che sul sistema pensionistico, sul sistema delle garanzie del lavoro. Gli sono stati sottratti questi famosi diritti acquisiti. Quindi lei dice, visto che si fa il discorso... si fa il discorso di tutti, ridiano i diritti acquisiti a tutti, Adriano. Beh, è una posizione legittima la sua, è una posizione condivisibile anche da molti che ci ascoltano, sono certo. Grazie Adriano, devo correre perché ci sono i nostri... lavoratori! Ma che non è poi una pernacchia, cioè noi stimiamo tantissimo tutti coloro che ci scrivono a 24 mattino e radio24.it, i nostri amati lavoratori, e che ci raccontano con passione le loro professioni. Oggi voglio salutare Elio. Buongiorno Elio. Buongiorno Alessandro e a tutti gli ascoltatori. Elio ci ha mandato delle foto che ricordano, adesso sarebbe da tanto, hai presente Patrick Swayze in Ghost? No, magari no. No, magari. Elio è un ceramista, giusto? Fino a qui è giusto. Tecnica, dillo tu Elio, tecnica? È una tecnica che si chiama Raku, una tecnica giapponese del XVI secolo. Raku. Sì, tecnica sì, Raku. Sì. Veniva utilizzata in quel periodo per realizzare le tazze relative alla cerimonia del tè. Ah. Poi arrivando in Europa e in America ha subito tante contaminazioni, però diciamo l'origine è quella. Ceramista con tecnica Raku. E sì, che fai Elio? Allora, io tra l'altro sono un ceramista un po' anomalo, perché io fino a 3 anni fa ero direttore marketing di un'azienda. Ma dai. Poi l'azienda ha avuto delle vicissitudini, io avevo questa grande passione, invece di ricercare lavoro ancora nel marketing, avevo questa passione per la ceramica e ho messo su 2 laboratori a Milano dove faccio dei corsi. E poi realizzo. Ma cosa fai? Cioè, te, cosa fai? Tazze, piatti? Faccio tazze, vasi, lampade, accessori che hanno pochissima funzionalità, se vogliamo, ma funzionale anche una cosa bella, per essere guardati. Siamo in Italia, ma grandi amanti anche dell'arredamento, dell'architettura, quindi è funzionale anche avere un oggetto che è bello avere in casa. Ma questa tecnica dove l'hai appresa? Perché l'ho appresa da un artista in Toscana, Mara Funghi, che faceva dei corsi estivi. Io ho iniziato a frequentare il suo laboratorio durante una vacanza e poi da lì ne ho frequentati altri e poi ho iniziato a fare invece un'attività mia qua a Milano. Quanto può costare una tazza con tecnica Raku? Ma quelle originali arrivano anche a qualche migliaia di euro. Accidenti. E sono decisamente dei prezzi più accessibili. Cioè, ma perché bisogna... I veri artisti sono in Giappone, quelli che... Sì, la grande tradizione del Raku è in Giappone. C'è proprio la dinastia Raku che realizza dei pezzi straordinari. Fammi capire, Raku viene da è un nome, è un cognome? C'è una dinastia? Inizialmente era una tecnica, poi il realizzatore primo che lavorava con il signore nel tempo gli fu insignito del nome di Raku e da lì tutta la sua discendenza. C'è Raku 1, Raku 2, Raku 3, adesso sono a Raku 15 mi sembra. Raku 15, ma è bellissimo. Sì, sì, cioè, hai mai conosciuto uno della dinastia Raku in persona? No, però un bel viaggio in Giappone a visitare il museo mi piacerebbe. Ma che bello. Dai Elio, in chiusura, fatti un po' di pubblicità, hai un sito, hai qualcosa? Sì, ho un sito, www.eliocristiani.com, sul mio sito potete trovare tutti i corsi che faccio. Aspetta, ridillo meglio, Elio Cristiani? ElioCristiani.com. Nome e cognome, perfetto. Nome e cognome, faccio dei corsi infrasettimanali, weekend. Quest'anno farò un corso residenziale in Umbria in una villa del 1400 e poi sto anche imparando nuove tecniche per fare dei corsi, realizzare delle cose per crescere. Elio, complimenti. www.eliocristiani.com, ceramista con tecnica Raku, oggi era il nostro lavoratore del giorno. Saluto Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e il nostro Carmelo Lauricella in regia.